Carissimi amici di Iceberg News, un sontuoso, un imperioso... Grandioso! Ma lei imparate! Mi sto preparando, mi sto preparando. Aleger, da Paolo Travagnin. E Marino Midena. Grazie, grazie. E eccoci giunti alla ennesima, alla N puntata di Iceberg News. Iceberg News, subito immediatamente i contatti per essere con noi. Contatto telefonico 339 39 90 836. Contatto telematico info@icebergnews.it. Desumibile chiaramente dal sito www.icebergnews.it. Naturalmente guardate il sito perché la nostra visibilità si sta moltiplicando, perciò chiaramente non posso citarvi tutti i nostri mezzi perché ci metteremmo un po' troppo. Naturalmente per quanto riguarda invece il vostro materiale, che stiamo sempre ricevendo, potete inviarlo a Iceberg News, alla cortese attenzione di Paolo Travagnin, via Ennio Bonifazi 36/500167 Roma. Stiamo ricevendo un sacco di materiale molto molto interessante che vaglieremo quanto prima e speriamo di potervi avere proprio voi come ospiti. Immediatamente passo la parola, come è nostro uso e costume, a Marino Midena in regia, che ci indica che cosa abbiamo, quali ospiti graditissimi abbiamo questa sera qui a Iceberg News. Marino, a te. Sì, eccomi qui in regia. Ti dico rapidamente il sommario di oggi. Con le news parleremo di musical e moda, quindi due temi molto importanti, e poi un cortometraggio molto particolare, Forme, di Simone Barbiero e Giuliano Ottaviani, e poi due graditissimi ospiti, una simpaticissima e bravissima cantante, Carlotta Cent'anni, che ci racconta la sua carriera, ci racconta quello che sta facendo, e poi un editore, ma è molto più che un editore, Gianno Bonfiglio, che ci racconta un mondo di libri in maniera completamente diversa, quindi veramente due chicche. Bene, grazie Marino, e come al solito puntuale e preciso. E come hai detto, giustamente, partiamo immediatamente. Noi prima di presentarvela qui in carne ed ossa e in vocale, ve la facciamo vedere, ve la facciamo gustare in una particolare esibizione molto molto passionale, molto emotivamente intrigante, Sabor a Me, un grandissimo classico. Lei è Carlotta Cent'anni, ce la vediamo, ritorniamo qui tra due minutini, subito subito. Allegri. Disfrutamos de ese amor, nuestras almas se secaron, y tanto sí, que yo guardo tu sabor, pero tú ya vas también, sabor a mí. Por fuerza tienes ya sabor a mí. I love you. No pretendo ser tu dueño. No soy nada. Yo no tengo vanidad de mi vida. Todo lo bueno. Soy tan pobre que otra cosa. Pasarán más en años, más Eccoci qui di nuovo in studio ad Iceberg News, carta e penna perché è il momento dell'opportunità di lavoro, in particolare si cerca una voce maschile e una voce femminile per la rappresentazione di Otello da parte della compagnia della Quarta, quindi il ruolo di Desdemona e di Otello, richiesta atleticità, buona recitazione, padronanza della musica rock. Se volete partecipare a questa selezione dovete scrivere a mariococcetti@compagniadellaquarta.it. Quindi in bocca al lupo e speriamo di vedervi. Okay. Marino, e ti ringrazio della Paolo. Nostra news. Certo, eccoci qua. E dove sono? In quale? Ecco. Allora, se mi dite quale camera è in funzione, è questa? Ok, perfetto. Allora, siamo qui in compagnia di Carlotta Centanni. Ve l'abbiamo appena fatta vedere e sentire e gustare con questa splendida Sabor Ami e ce l'abbiamo qui proprio accanto a me. È lei? Se la, la sì, vediamo? Sì, eccola, sì. Eccola, è lei. È lei. Ciao okay. A tutti. Allora, intanto, immediatamente una breve presentazione perché come al solito a parte i nostri tempi velocissimi ma tutte le cose che hai fatto in questi anni occuperebbero veramente più di esatto. Una trasmissione. E come nasce la tua passione per il canto? Come l'hai scoperta? L'ho scoperta giovanissima, avevo 14 anni, ero a scuola e c'era un'assemblea ma la sala era ancora vuota, c'erano pochissimi alunni e c'era questa grande tavolata con questo microfono e io ho sentito proprio il bisogno, la necessità fisica direi di andare di salire su questo palco e di cantare e cantai un pezzo poi famoso Bagdad Café che è un pezzo che è straordinario che io canto tuttora e cantai questo brano e ricordo che ci furono appunto dei miei compagni che mi dissero ma tu assolutamente e devi fare questo nella vita eccetera eccetera e lì fu proprio il momento in cui io capii che c'era una passione, già c'era una grande spinta interiore e da lì cominciai a cantare. Ogni volta che mi trovavo in qualche posto, in qualche locale dove c'era il microfono io dovevo andare a cantare. Finché poi sono arrivata insomma ad avere 20 anni, 22 anni, incominciai a prendere lezioni di canto da una cantante lirica. Certo, intanto vedo che la sì, ogni tanto mi gira. Si sta anche sbizzarrendo, ci fa vedere ogni in varie pose gira. La nostra Carlotta. E quindi incominciai a prendere lezioni di canto e misi su un gruppo, il mio primo gruppo a 23 anni e da lì insomma cominciai a cantare. Questa splendida carriera. Sì, è la mia. Che la tuttora mia ti porta in vari palchi in giro per il mondo. Ma non solamente esibizioni live, perché so che sei stata ospite in più di qualche trasmissione, anche anzi sicuramente più blasonata della nostra. La nostra è una piccola punta dell'iceberg, però so, ultimamente sei stata presente su Rai 2. Rai 1 e Rai 2, sì, ho fatto un'esibizione con Massimo Ghini, raccomandati. E devo dire che è stata un'esperienza veramente unica perché io non ho mai cantato in diretta in televisione, insomma l'avevo mai fatto, quindi per me è stata un'esperienza comunque meravigliosa e anche perché Massimo è una persona straordinaria, dolcissimo, veramente straordinario. E poi io ho appunto poi cantato su Rai 2 qualche mese dopo in questa trasmissione che si chiama Matinée. Le potete sentire perché è un brano al quale io tengo tantissimo e spero che lo possiate sentire certo, tutti. Certo. E io ti ringrazio di queste precisazioni molto interessanti. Penso che abbiamo anche proprio, se la regia ci aiuta, abbiamo proprio una chicca in anteprima di un tuo CD che ci presenti. Sì, che sarà che non, è finito. Esatto, questa è diciamo un'anteprima. Diciamo che è un'anteprima, si chiama Corri presto a prendermi, voglio specificare che il produttore di questo disco e l'arrangiatore di questo disco è Stefano Malatesta, ci tengo perché insomma ho conosciuto Stefano, che è una persona straordinaria ed è anche il direttore artistico di questo locale del quale vi parleremo, che si chiama Dune. Hai colto proprio il segno, anche perché ti vedremo proprio lì. Esatto. Prossimamente. E sabato 17. Hai fatto bene a dire. Sabato 17 al Dune Club. Dune Club, questo. Sì, è un posto. Scusami se. No, fai benissimo. Prendo un po'. Fai benissimo. Ci tengo a dirlo perché è un posto veramente speciale. In Roma, secondo me, sono pochi i locali dove si fa buona musica, dove si ascolta buona musica. E soprattutto dove ci sono delle persone che amano certi ambienti e ascoltare appunto buona musica, e questo appunto è un locale intimo, piccolino, soft, accogliente, e dove suonano degli straordinari musicisti, e il direttore artistico appunto è Stefano Malatesta, anche il mio produttore. Benissimo. E io suonerò lì sabato 17. Perciò sabato 17 noi invitiamo tutti i nostri ascoltatori a essere presenti al Dune Club, Piazza Santi Apostoli 52. Esatto. Ma poi ve lo ricorderemo. Immediatamente io passo la parola alle nostre immagini, come sai noi siamo sempre di corsa, sì. Mi dispiace toglierti assolutamente, lo spazio. Passiamo, come appunto ci ha indicato prima Marino, a questo corto, un nuovo corto che noi proponiamo, Forme, di Simone Barbiero e Giuliana Ottaviani, e ve lo riproponiamo, e ci troviamo qui in Iceberg News con il prossimo ospite tra qualche minuto. Valeria. Open eyes, looking without seeing. Eccoci rientrati in Iceberg News e immediatamente, come si suol dire, carta e penna per la nostra news opportunità lavorativa. Opportunità lavorativa per una bella ragazza, una fotomodella che deve essere veramente di bella presenza per un lavoro in Francia, pensate. È un importante servizio fotografico di 3 giorni in dicembre, una cifra altissima, perciò vi consiglio di partecipare. E per farlo dovete inviare le vostre credenziali, le vostre foto a fotomodella_ita@libero.it. Molti auguri per quelle che riusciranno a partecipare a questo casting. Immediatamente la parola a Marino con il nostro grandissimo ospite, eccolo. Dici bene Paolo, ho qui accanto a me Gianni Bonfiglio che scopriremo, noi lo presenteremo come editore, ma scopriremo che è molto di più. In particolare oggi festeggiamo anche un piccolo compleanno, perché la casa editrice che ha creato Gianni Bonfiglio compie 5 anni, la Fermento Casa Edizioni, casa editrice. Fermento. Come si arriva a 5 anni di vita una casa editrice? Beh, 5 anni sono lunghissimi per una casa editrice, specialmente una casa editrice che nasce dal nulla, insomma. Prima non c'era e poi a un certo punto è cominciato ad esistere. Quindi la difficoltà maggiore per una casa editrice che nasce dal nulla è quella di trovare e individuare gli autori che poi dovrà pubblicare. E come si sa, in Italia quasi tutti scrivono, insomma, come diceva Hemingway addirittura una 60 anni fa, la metà degli italiani scrive e l'altra metà non legge. Quindi non manca naturalmente il materiale, no? Dove poter attingere, quindi trovare gli autori. Naturalmente la difficoltà maggiore è quella di riuscire appunto a selezionare quelli che possono essere autori validi, autori che abbiano possibilità di mercato, e riuscire poi a entrare nel giro, nel mercato delle librerie, e quella è la cosa più difficile per una casa editrice esordiente. Quindi è una vita vissuta quotidianamente con coltello tra i denti? Beh sì, perché se consideriamo che ogni anno in Italia si pubblicano 55.000 titoli, e quindi ogni giorno ne escono circa 160, mentre stiamo parlando ne sono già usciti 3, sì. Più o meno, quindi è complesso e difficile riuscire a, a ritagliarsi uno spazio. Di mercato che sia abbastanza interessante. Noi ci siamo riusciti in questi 5 anni, i nostri libri sono presenti in tutte le grandi librerie, in tutti i grandi circuiti librari, abbiamo degli autori molto validi e molto in gamba che riescono a fare mercato con un'editoria naturalmente però di qualità, questo è il discorso fondamentale al quale noi ci teniamo. Il nostro slogan è: pubblichiamo libri per vendere emozioni. Ah, bello, bello, pubblichiamo libri per vendere emozioni. Giustamente tu ponevi l'accento sugli autori, qual è la molla che ti fa scattare nella scelta di un autore rispetto a un altro? Immagino che tu avrai tantissime proposte, cosa ti fa selezionare un testo rispetto a un altro che invece vai a scegliere? Ma diciamo che la discriminante per me è quella della capacità produttiva, cioè non ci interessano quasi mai autori che hanno scritto un solo libro o che si fermano al primo libro. Ci interessano degli autori che hanno un percorso letterario, quindi hanno qualcosa da comunicare e ce l'hanno nel tempo, perché proprio questo è il lavoro oggi dell'editore, quello di riuscire a selezionare degli autori che poi poter portare avanti e poter portare alla notorietà. Noi abbiamo autori con noi che pubblicano, hanno già pubblicato in 5 anni ben 5 libri, addirittura ce n'è uno che ne ha pubblicati 6 con noi. Quindi è questo quello che ci interessa, quindi è quello, il consiglio che poi possiamo dare a chi vuole scrivere è di presentarsi non con un solo libro, ma presentarsi con un percorso letterario abbastanza identificabile. Già avviato, quindi dare la sensazione, certo, di una professionalità e di un impegno già ben consolidato. Però so che sei autore anche tu, Beh. E poi tra parentesi hai scritto una cosa molto gustosa, io trovo, perché hai fatto un vocabolario, possiamo chiamarlo sì, così. È stato esattamente il nostro primo libro. Il primo libro che abbiamo pubblicato è stato Il piccolo vocabolario di siciliano italiano per i lettori di Camilleri, ad uso e consumo dei lettori di Camilleri. È stato il nostro primo libro, ha avuto un grandissimo successo, ne abbiamo vendute decine di migliaia di copie, perché in quel momento, 5 anni fa, appunto Camilleri, che ancora adesso è sempre in vetta alle classifiche, ma insomma c'era ancora tanta gente che non riusciva a capire lo slang di la caratteristica. Abbiamo fatto questo libricino che è stato veramente un grande successo, perché ha permesso a tantissima gente di di capire, diciamo, quelle parole un pochino più difficili, insomma. Io so che, pur rimanendo nel campo dei libri, tu sei approdato a qualcosa di leggendario proprio. Da Fermento a che cosa? A Fermento a una trasmissione giornaliera sui libri. Proprio perché... Che si chiama Leggendario TV. Si chiama Leggendario. È una trasmissione giornaliera sui libri che si pone come il punto di riferimento dell'informazione libraria italiana. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che cerchiamo di presentare a tutti i teleascoltatori le novità letterarie che escono ogni giorno, e sono veramente tante in Italia. Quindi è un programma che si basa su un nuovo concetto di comunicazione, che è quello dei book trailer. Noi abbiamo investito tantissimo su questo nuovo elemento di comunicazione dei libri, cioè il book trailer, dei piccoli cortometraggi che servono proprio a far recepire il libro in maniera completamente diversa, cioè più... Ti interrompo un attimo, io proporrei alla regia di iniziare, sì, a farli proprio a vedere, perché sono interessantissimi, io l'ho visti e trovo che sia una forma di promuovere un libro molto intelligente. Questa è la copertina, l'ultima fatica l'ultimo, della Fermento. L'ultimo libro, sì, Ragione e follia, la vita segreta del tuo champantier, di Eugenio Cardi, appena uscito. Però invece i book tale, adesso li vediamo, sono questa proposta accattivante per immagini dei video, dei libri che in qualche modo tu vai a scegliere sul mercato. Beh sì, l'idea è nata proprio quella di dare voce ai libri, quindi cercare di trasformare i libri. Il problema che abbiamo noi editori è quello che non riusciamo a far sapere che un libro esiste, perché non abbiamo le risorse per poter approcciare alla pubblicità classica. Certo. Allora ho pensato di investire su questo, abbiamo creato una piccola casa di produzione, la Fermento Film, con la quale produciamo anche la trasmissione televisiva Leggendario, proprio per trasformare in immagini, in suoni. Ecco, è partito il primo book trailer. Quello che stiamo vedendo Beatles for Sale, Beatles credo. For Sale, sì. Sì. Non è partito l'audio, noi proseguiamo, sì, in attesa di poter sentire naturalmente la proposta completa. Questo book trailer appunto è stato fatto su un libro che si chiama Beatles for Sale, cioè un romanzo sui Beatles, cioè un romanzo sulla vita dei Beatles. Certo. Cioè è stata romanzata non tanto la vita dei Beatles quanto il racconto. Quindi da questo libro è stato uno dei primi book trailer che abbiamo creato, proprio per cercare di pubblicizzare, perché in realtà il book trailer non è altro che come un trailer cinematografico, è pubblicità naturalmente. Perfetto. Siccome è molto difficile poter pubblicizzare un libro sulla carta, su una pagina di giornale, è molto più efficace, molto più accattivante poterlo fare per immagini e per suoni. E apri al mondo dell'immagine, del satellitare. Quindi abbiamo aperto questa strada appunto del book trailer, però poi il problema qual era? Era quello: dove li mettiamo questi book trailer? Certo. Dove li trasmettiamo? Non è che possiamo acquistare spazi su Rai o su Mediaset per mandarli in onda. E da qui è nata l'idea anche di produrre una trasmissione televisiva sui libri, che potesse essere il contenitore ideale per i book trailer, ed è nato Leggendario. Le case editrici adesso stanno scoprendo questa nuova forma di proposta? Siamo ancora, devo dire, agli esordi, però noi per esempio ne abbiamo già prodotti una decina anche per altri editori, e sta cominciando a diventare una moda quella di produrre dei book trailer. Ogni volta che si lancia un nuovo libro, fare un book trailer per poterlo accompagnare, quindi accompagnare il libro, il lancio del libro da immagine e suoni. Certo, che possono andare anche su internet. Io ti devo fare i complimenti, perché fai un'opera che è culturale ma anche sociale, perché l'impegno che stai mettendo in questo tipo di proposta credo che sia altissima, sì, è encomiabile. Perché non esistono trasmissioni televisive sui libri, tantomeno trasmissioni giornaliere di mezz'ora al giorno, per avvicinare la lettura, per avvicinare i libri alla gente, perché questo è il problema. Tantissima gente non legge perché ha un'idea probabilmente distorta di quella che è la letteratura e di quello che è la lettura. Noi riteniamo che i libri debbano essere alto intrattenimento, quindi debbano essere visti e recepiti come i film, per esempio, no? Perché uno va a cinema, certo, per passare due ore, per divertirsi, E leggere un libro deve essere interpretato esattamente allo stesso modo, deve essere divertente e piacevole. Complimenti per l'idea, perché è molto originale. E siamo arrivati alla fine, immediatamente siamo fuori tempo massimo, mi dispiace tantissimo di bloccare. Facciamo un letterario saluto allora. Esatto, facciamo un bel Allegher tutti insieme. Corale, noi cercheremo di rinvitare tutti quanti. Carlotta Cent'anni. Ciao a tutti. Gianni Bonfiglio. A tutti, grazie. Marino Allegher. Allegher, alla prossima. Thank you.